Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo subito dagli Stati Uniti, perché come anche i nostri GR24 vi hanno ricordato, oggi il dato di febbraio è un dato impressionante. L'economia americana ha creato 295.000 posti di lavoro, il dato è migliore di ogni attesa, ma soprattutto è il 12° mese di fila, che tradotto significa è un anno intero che i nuovi salariati mensili negli USA, quindi le nuove assunzioni, superano quota 200.000. Pensate che non si vedeva una serie così positiva nell'occupazione americana. So che fa storcere la bocca, visto che qui in Italia e in parte dell'area euro siamo invece al record opposto, al record di disoccupazione, record dei pochi occupati. Però, dicevo, non capitava in America dagli anni 90 che si creasse una tale occupazione consecutivamente per 12 mesi. Tra l'altro ci sono cose interessanti, perché non è il comparto delle costruzioni quello che ha creato più posti, la ristorazione ne ha creati 60.000 solo in un mese. Il tasso di disoccupazione americana a questo punto scende al 5,5%. Se ci limitiamo ai fatti e non alle polemiche, la politica adottata dagli Stati Uniti dal 2009 in poi per uscire dalla crisi finanziaria è stata un successo, perché ha posto al centro la ripresa economica, e la ripresa economica attraverso la ripresa dell'occupazione. La disoccupazione è ai livelli più bassi da 7 anni a questa parte, e quindi il fatto di avere avuto una politica molto espansiva, che significa stampare dollari, abbiamo raccontato decine di volte, 130 miliardi stampati ogni mese per anni, aver tenuto i tassi bassi e avere fatto l'opposto di quello che ha fatto l'Europa in questi anni, l'area euro in questi anni, ha prodotto sì un deficit un po' alto, un'inflazione tutto sommato ancora non preoccupante, ma soprattutto ha portato l'America a livelli di occupazione, quindi di benessere sociale, visto che, per come la si voglia girare, il benessere sociale passa anche e soprattutto dal lavoro, a livelli più alti da 7 anni a questa parte, quindi ai livelli sostanzialmente pre-crisi. Di questo parleremo. È sicuramente uno dei successi maggiori di Obama e anche e soprattutto della Federal Reserve, quindi Ben Bernanke da una parte e Janet Yellen adesso. Parleremo di questo, dicevo, parleremo come sempre anche della borsa, dove oggi sostanzialmente la giornata è veramente veramente piatta: meno 0,02 Milano, meno 0,08 Parigi, Francoforte guadagna lo 0,3, Londra meno 0,4, l'America meno 0,90%. Anche guardando i titoli dal punto di vista negativo, Snam meno 2,34, Enel meno 1,30 con Enel Green Power, l'1,20 lo perde Terna, l'1,1 Telecom, Edeni e Mediobanca. Fronte opposto, Jux più 4,31, Monte dei Paschi ha strappato durante la seduta, adesso guadagna il 4%, Moncler più 3,60, Autogrill più 2,5, Pop Milano più 1,90, Generali più 1,60 come la Pop Emilia Romagna. Euro in costante indebolimento a 1,086, siamo praticamente alla parità, di fatto 1-1, un euro vale un dollaro, sì, ok, un euro vale 1,08 dollari, siamo alla parità. Faccio notare che a settembre eravamo ancora vicini a quota 1,38-1,40, per cui il calo è stato sensibilissimo, un po' di meno, ma insomma il calo è stato sensibilissimo dell'euro, e dovrebbe dare, appunto, a maggior ragione se il petrolio si mantiene intorno ai 50 dollari, quindi non importiamo inflazione per colpa di un euro debole, dovrebbe dare un grosso beneficio ulteriore alle nostre esportazioni. È semplice fare il calcolo, immaginate qualcuno che deve esportare e concorre con paesi di area dollaro, in questo momento riesce a offrire il suo prodotto a parità di prodotto a un costo di quasi il 30% inferiore. Beh, è un bel vantaggio quando vai a fare gare, quando lavori con i fornitori, quando devi piazzare i tuoi prodotti di qualunque settore merceologico essi essi siano. Ancora sui temi di cui tratteremo, parleremo della Grecia. Ahimè, tocca parlare della Grecia perché le indicazioni che stanno arrivando in una settimana già difficile sono sempre più preoccupanti. Cioè, mentre Tsipras ha attaccato la Banca Centrale Europea dicendo ci tiene la corda al collo, se non riapre i rubinetti torneremo al thriller di febbraio, però l'ho fatto in un'intervista al settimanale tedesco Der Spiegel. Però faccio notare che oggi di nuovo sono arrivati numerosi dubbi sulla tenuta della Grecia e sul fatto che la Grecia riesca a pagare gli stipendi. Ne parleremo più avanti, parleremo anche della vicenda derivati, visto che ieri il Ministero del Tesoro ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo in corso a Trani, che vede 6 tra manager e analisti della società di rating Standard & Poor's e Fitch accusati di manipolazione del mercato. Tra l'altro il legale di uno dei dipendenti di Standard & Poor's ha accusato il PM Michele Ruggero di aver occultato la deposizione dell'ex presidente del Consiglio Mario Monti ai difensori, cioè di aver occultato ai difensori la deposizione di Mario Monti e al giudice, ma di averla occultata anche al giudice dell'udienza preliminare che dispose poi il rinvio a giudizio. Il PM Ruggero ha respinto l'accusa. Ma insomma, parleremo di una vicenda molto molto delicata e anche della tesi complessiva dei PM di Trani che chiamano in causa direttamente Standard & Poor's, tesi come scrive oggi Claudio Gatti su Sole 24 Ore difficilmente probabile, non che sia una tesi bizzarra, è che poi riuscire a provare quanto dici diventa abbastanza difficile in questi casi. Ma abbiate pazienza, ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Chiaramente, come annunciato, oggi partirà anche la nostra classifica poco invidiabile, che speriamo di chiudere presto, ma temo di no, la classifica degli sprechi 2.0. Abbiamo deciso di accorpare al venerdì, perché non riuscivamo a stare dietro tutti i giorni agli sprechi, le malversazioni, i casi eclatanti della nostra pubblica amministrazione a qualunque livello di territorio, dai comuni allo Stato. E partirà la nostra poco allegra classifica della top 5 della settimana, cioè le notizie più assurde, per modo di dire, più inaccettabili, forse meglio dire, che abbiamo scovato e che scoveremo ogni settimana in tema di sprechi, malversazioni, accuse, indagini che riguardano i nostri soldi. Ripeto, la distinzione è non che il privato sia meglio per definizione, la storia ci ha insegnato che non è vero che il privato sia sempre meglio, anzi. Il problema è che il privato non chiede soldi ai cittadini e poi la cattiva gestione di un gruppo ricade sugli amministratori delegati e sugli azionisti, per cui è un affare privato. Tutto ciò che invece sono soldi pubblici è un affare pubblico. Ma non vuol dire, ripeto per la seconda volta, che il privato sia meglio. Pensiamo solo alle retribuzioni dei manager del mondo bancario e finanziario dei paesi anglosassoni, non solo. Però lì rispondono gli azionisti, rispondono i manager, rispondono chiaramente anche legalmente qualora vi fossero dei reati. Tutto si può dire tranne che però siano soldi pubblici. Perché l'euro continua a calare? Mi chiedono alcuni di voi. Anche il dato sulla disoccupazione americana è servito, perché insomma il dato di oggi, di cui parleremo più avanti, è un dato, anzi tra pochi minuti, che segnala un grosso vigore nell'economia americana. Vado veloce sul resto perché praticamente le notizie più importanti sono tutti temi di approfondimento oggi. Lo spread italiano sotto i 90 punti per la prima volta dal maggio del 2010, il tasso sul BTP a 10 anni rende l'1,27% lordo. Un dato buono arriva anche da Terna, perché a febbraio i consumi elettrici sono tornati a crescere, più 0,7% dopo 4 mesi di segno negativo. Attenzione però, perché depurata dall'effetto della temperatura la variazione della domanda è negativa di uno 0,7%, perché c'è una temperatura più alta. I prezzi della produzione industriale sono in calo a gennaio del 2,9% e in flessione anche del mese. È il calo dei prezzi della produzione più forte dal 2009. L'indice dei prezzi della produzione è in calo da marzo di 2 anni fa. Il modello 730 precompilato, ne parleremo con i colleghi di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, arriverà dal 15 aprile per 20 milioni di pensionati, lavoratori dipendenti e assimilati. Il famoso 730 precompilato l'ha annunciato oggi l'Agenzia delle Entrate, spiegando che grazie al patrimonio informativo acquisito i contribuenti potranno disporre già nel 2015 di una dichiarazione dei redditi precompilata in tutto o in buona parte. Alcuni di voi mi segnalano, sì, stavo per parlarne, l'articolo del Sole 24 Ore sullo stipendio di Marchionne. Allora, noi parliamo di tutti e parliamo anche di Sergio Marchionne. Nel 2014 ha intascato 31 milioni di euro, nonostante il calo degli utili netti del gruppo. E lo stipendio di 6 milioni e 600 mila euro più un compenso straordinario di 24 milioni e 700 mila euro per specifiche transazioni ritenute eccezionali in termini di importanza strategica e di effetto sui risultati aziendali. Allora, ogni gruppo privato è libero di darsi la politica di remunerazione che crede. C'è un CDA, ci sono degli azionisti, c'è un titolo in borsa, ci sono le valutazioni, non mica siamo nel socialismo reale. Altra cosa è poi valutare, come stiamo per fare, come sceglie un gruppo di remunerare i suoi dirigenti, fermo restando che è del tutto legittimo. Le linee guida per i bonus al top manager della Fiat nel medio e lungo periodo sono legate al raggiungimento di obiettivi finanziari. Anche qui tutto bene, tutto legale, tutto corretto, non è una cosa strana. A cominciare dagli utili netti, per cui gli obiettivi sulla base dei quali scatta il bonus per Marchionne sono obiettivi prettamente o principalmente finanziari e riguardano specificatamente l'andamento degli utili netti. Altre case automobilistiche, nella piena autonomia e rispetto delle scelte individuali di governance e di remunerazione dei manager, scelgono però altre strade. Volkswagen, per esempio, lega i bonus dell'amministratore delegato Martin Winterton agli indici di soddisfazione dei clienti, anche agli indici di soddisfazione dei clienti, dei dipendenti e all'aumento delle vendite, alle quote di mercato. Quindi Fiat predilige il risultato finanziario, Volkswagen predilige il risultato, possiamo chiamarlo economico, in senso improprio, cioè le vendite, le quote di mercato che hai utilizzato. Ognuno è libero di valutare quale sia il meccanismo migliore e fermo restando che ogni gruppo è libero di scegliere la politica di remunerazione che vuole. La classifica dei ministri più ricchi, oddio, insomma, abbiamo preparato anche dei servizi nel GR24. Comunque Piercarlo Padoan, secondo i redditi del 2013, è il ministro più ricco nella squadra di Matteo Renzi, con 216.000 euro all'anno, a cui vanno aggiunti poco più di 53.000 euro di alta dichiarazione. Sulle stesse cifre anche il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, 278.000 euro. All'estremità opposta invece i ministri Maria Elena Boschi e Marianna Madia, che hanno dichiarato rispettivamente 94.000 euro e 1.500 azioni di Banca Etruria per la Boschi e 94.000 euro per la Madia. Ultimo tema prima della classifica, ma ci sta, perché adesso partiremo con la classifica della top 5 degli sprechi italiani e a maggior ragione è importante ricordare che per ora ammonta a svariati milioni di euro il bilancio dei danni, appunto provvisorio, che ha subito l'agricoltura in queste ultime ore in Toscana, nelle Marche, in Abruzzo, in Molise, in Campania e in Puglia. Il primo monitoraggio lo ha effettuato la Coldiretti, migliaia di danni tra serre, stalle, strutture agricole scoperchiate, olivi, alberi da frutto, sradicati, vigneti, silos piegati, la regione più danneggiata purtroppo resta la Toscana e in particolare Pistoia, che è, visto che parlavamo qualche giorno fa di distretti, è la capitale italiana del distretto della vivaistica dei fiori. E chiaramente flagellata con serre scoperchiate, piante divelte, gemme distrutte. Il nostro Simone Spezia, durante effetto giorno, ha intervistato il presidente del distretto rurale vivaistico ornamentale della provincia di Pistoia, Vannino Vannucci, che ha raccontato, a partire anche dalla sua situazione, visto che la Vannucci Piante di Pistoia ha una superficie di 500 ettari e 300 dipendenti, i danni arrecati da maltempo nelle ultime ore. La situazione è abbastanza critica in questo momento, perché a parte che il vento sta continuando, anche se molto meno intenso, ma è certamente critica perché ci sono stati tantissimi danni alle nostre piante e soprattutto anche alle strutture, serre, capannoni, ombrari, che sono stati letteralmente distrutti. Naturalmente non avete ancora una conta dei danni precisa, Vannucci, immagino, no? No, anche perché è successo solo 24 ore fa circa, ma e poi i danni enormi saranno alle nostre colture. Questo è il centro più importante d'Europa della produzione di piante, ci sono alberi anche che hanno 50-100 anni e in poche ore sono stati rovinati per sempre da questo evento eccezionale che non si era mai registrato, credo, negli ultimi 200 anni nel nostro territorio. Ci può dare un quadro della sua azienda in che condizione è? Che così almeno abbiamo un'unità di misura, per così dire. Noi abbiamo molti dei nostri capannoni scoperchiati, abbiamo molte serre che sono state o distrutte o proprio anche queste scoperchiate, e abbiamo soprattutto, ripeto, il nostro patrimonio che sono le piante, tutte giacenti a terra in questo momento, proprio cadute, quelle in vaso e quelle che invece si trovano nella terra, sono state piegate, sono state rotte, radicate. Quanto di questo patrimonio è recuperabile? Noi auspichiamo di poterne recuperare una buona parte. È chiaro che ci precludiamo anche un po' il mercato, che tra l'altro sfortunatamente siamo anche proprio nel pieno del momento delle spedizioni e delle vendite, perché lo sapete, la primavera sta arrivando, abbiamo tantissimi clienti sul territorio che vengono da 60 paesi del mondo che vengono a acquistare le piante, e dimostriamo le piante purtroppo tutte rovinate. Questo è un grosso danno. Vabbè, in bocca al lupo a tutti gli agricoltori, a tutti gli abitanti chiaramente delle aree colpite. Allora, parte una nuova rubrica, nuova per modo di dire. Speriamo che, pur essendo nuova, muoia subito, ma dubito. Allora, la classifica degli sprechi dell'amministrazione pubblica in generale della settimana. E allora, ahimè, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia per scrivere al programma. La classifica della settimana. Allora, al quinto posto, la facciamo a 5 questa classifica, l'ARSEA, l'Agenzia Siciliana per i Pagamenti in Agricoltura, che doveva prendere il posto della ministeriale AGEA con il compito di smistare i finanziamenti europei. Esiste solo sulla carta, ma continua a macinare soldi. L'ente è inattivo, non è mai stato messo in liquidazione, ha ancora una sede nel Palazzo ESA di Catania, contratti mai disdetti tra affitti, dipendenti, pagati per anni, un direttore in carica con un contratto in corso, il conto è di 1,5 milioni di euro. Da un anno poi 52 apparecchiature elettroniche, computer, stampanti, server, costate oltre 40.000 euro, acquistate per l'ARSEA e mai utilizzate, stanno ammassate in uno scantinato del palazzo che ospita appunto l'agenzia fantasma. L'elenco delle spese affrontate è stato inviato alla Procura della Repubblica, a quella della Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza dallo stesso dirigente che guida l'ARSEA dal 2012, si chiama Claudio Raciti, è un agronomo, e ha detto: attenzione, il mio ente mangia soldi e denuncio questa cosa. Almeno un elemento positivo in questo spreco che guadagna il quinto posto della nostra poco invidiabile classifica. No, anche perché stiamo parlando di una regione dove, secondo la Corte dei Conti, mi riferisco alla Sicilia, i costi della politica sono i più alti in Europa. Al Presidente del Consiglio e alla quasi totalità dei consiglieri provinciali di Catania viene contestato tra l'altro un danno di 450.000 euro per spese di missione e funzionamento non compatibili con le loro esigenze. Gli hanno contestato nelle forniture di giornali anche i quotidiani sportivi, libri e pubblicazioni, gadget, migliaia di calendari. Poi sono in giudizio 7 capogruppi parlamentari dell'Assemblea regionale per un uso non istituzionale dei fondi, un danno di 1.925.000 euro, fondi che secondo l'accusa sarebbero stati spesi per cene, regali, servizi personali. E mentre noi parlavamo di questi scandali, i consiglieri di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, se c'è qualcuno di questo paese che ci ascolta ne prenda atto, hanno deciso di aumentare del 417% il gettone di presenza, per un costo complessivo per Priolo Gargallo di 650.000 euro. E non cito quanto già capitato a Agrigento. Quindi, quinto posto se lo becca la Sicilia e l'ente Arsea. L'Italia è una penisola troppo lunga, dicono alcuni, ma non quando parliamo di sprechi. Dalla Sicilia a Milano. Perché? Perché la vicenda dei conti dell'Aler. Allora, dirigenti superpagati, consulenze esterne, assunzioni politiche, perfino un fondo di previdenza integrativo per i dipendenti mai attivato. Allora, il faldone sull'inchiesta Aler vale sostanzialmente 1000 pagine e raccoglie le 32 sedute della Commissione regionale d'inchiesta. Allora, dice, cito testualmente, il 7 luglio Raffaele Tisker, direttore generale di Aler, per soli 2 mesi prima delle dimissioni: ho notato e ho cercato di porre rimedio che i dirigenti Aler erano mediamente pagati più dei dirigenti della regione Lombardia, circa il 30% in più, ed erano tutti dotati di macchina a proprio uso privato. Altro tema, le consulenze affidate ad avvocati esterni per cause legali. Tra il 2009 e il 2013 il numero di consulenze è aumentato, è cresciuto in maniera esponenziale. E nella società milanese non esiste una procedura formalizzata per l'assegnazione degli incarichi, né un sistema di valutazione degli andamenti di questi incarichi, delle performance dei legali esterni, che coinvolgono 27 studi diversi di avvocati. Ah, se mi fate notare, l'Aler è l'azienda Lombardia edilizia residenziale, gestisce le case popolari a Milano. Al terzo posto, ve l'avevo forse annunciata, qui più che il danno in senso diretto c'è una fotografia di una giustizia impazzita in questo paese. 18 magistrati impegnati per 5 anni per scovare chi? L'ISIS? No. La Camorra? No. L'infiltrazione della mafia al nord? No. Per capire chi ha e che cosa ha causato la morte di un piccione. Il 6 giugno 2010 un avvocato di 50 anni si affaccia a una finestra della sua villetta a Milano e con un colpo di fucile ad aria compressa c'entra un piccione che cade morto nel palazzo a fianco. I vicini chiamano i carabinieri, pure i vicini. Ai militari che bussano alla villetta si presenta un uomo descritto dai carabinieri in palese stato di ebbrezza alcolica. Però ha centrato il piccione, è stato ubriaco, ma il piccione l'ha centrato. L'uomo viene accusato di forse l'ha centrato perché è ubriaco, non lo so. L'uomo viene accusato di uccisione di animali con crudeltà e getto pericoloso di cose, il proiettile, in luogo privato di uso altrui. Viene condannato dal GIP con decreto penale a 8.000 euro di multa. Lui non ci sta, si oppone, vuole il rito abbreviato. Nel 2012, quindi 2 anni dopo, il giudice condanna l'avvocato a 1 mese e 20 giorni e arresto con la condizionale. L'uomo fa appello perché, sostengono i difensori, non c'erano indizi sufficienti, nessuno l'ha visto sparare. I carabinieri non hanno redatto un verbale per constatare lo stato del piccione. Mancava solo la rianimazione. E poi, chi ha detto che l'uccello sia stato ucciso dal proiettile? Non potrebbe essere, sostengono gli avvocati, che si è fatto male da solo andando a sbattere contro un ramo. È difficile chiederlo a Piccione a questo punto. E se fosse morto per cause naturali? Nell'ottobre del 2012 il processo d'appello, altri tre giudici e un sostituto procuratore conferma la condanna, gli avvocati vanno in Cassazione. Passano altri 16 mesi, 5 giudici della terza sezione penale confermano la condanna, ma solo per il reato di uccisione dell'animale, non per il getto pericoloso delle cose. Quindi si torna alla Corte d'Appello di Milano. Il 30 gennaio 2015, altri tre giudici e un sostituto PG che con tutti gli altri fanno la bellezza di 18 magistrati appunto, e per l'ennesima volta i giudici analizzano la sorte dell'animale, arrivando perfino a chiedersi se il getto pericoloso potesse essere costituito dalla caduta del corpo stesso del piccione ferito e agonizzante precipitato tra le persone e non del proiettile. Insomma, viene confermata la sentenza anche per il secondo reato, ma per arrivare alla prescrizione che scadrà a giugno c'è ancora la possibilità di un ricorso in Cassazione, che significherebbe lavoro per altri sei magistrati. Un piccione. Secondo posto, abbiamo quasi finito. Torino, le spese pazze della regione Piemonte, perché si sta andando agli interrogatori. Allora, in tribunale a Torino una funzionaria della regione Piemonte racconta che un consigliere gli chiese se i panini potevano essere rimborsati, e poi gli imputati sono 25, tra cui l'ex governatore Cota. La deposizione tra l'altro fatto di un dirigente, Carla Melis, ha fatto chiarezza sulle retribuzioni. Nel 2010 la sola indennità di carica ammontava a 9.948 euro lordi e poi 120 euro di gettoni di presenza per ogni riunione, una quota basata sui chilometri fra la sede dell'evento e il comune di residenza, ecco perché molti risiedono distantissimi. Esisteva poi anche una quota fissa corrispondente a 8 gettoni di presenza e 8 rimborsi chilometrici al mese, più una somma equivalente a 3.000 chilometri anche per i consiglieri che risiedevano a Torino, non si capisce perché. Comunque, consiglieri che pensavano che i caffè fossero rimborsabili, che hanno messo i regali di rappresentanza, il CD di Guccini, lampada d'ufficio e quant'altro. Il processo continuerà il 13 marzo. Oh, arriviamo al numero uno della settimana. And the winner is... l'ex commissario Fiori, era facile questa settimana, Marcello Fiori. Allora, a conclusione di un'inchiesta della Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un sequestro conservativo, ieri era sui giornali, di beni per 5.780.000 euro nei confronti dell'ex commissario delegato per l'emergenza agli scavi archeologici di Pompei, Marcello Fiori. Al centro dell'indagine, i lavori realizzati nel 2010 per la fornitura di attrezzature per spettacolo all'estimento scenico del Teatro Grande di Pompei, ritenuti esorbitanti rispetto all'obiettivo, che era quello di mettere in sicurezza, conservare e restaurare Pompei. Tra l'altro l'affidamento dei lavori era stato effettuato senza gara. Tra l'altro la vicenda nasce nel 2008 perché dopo i numerosi crolli verificatisi nell'area archeologica fu dichiarato lo stato di emergenza. A seguito di questa dichiarazione furono emanate in due anni varie ordinanze di protezione civile che hanno stanziato complessivamente 79 milioni di euro, tutte finalizzate alla messa in sicurezza dell'area archeologica. E il sostituto procuratore dei conti della Corte dei Conti, Donato Luciano, ha contestato il danno patrimoniale sia a Fiori sia a altre 9 dirigenti. Complimenti per Pompei. Sono esausto. In diretta con Focus Economia, adesso ci occupiamo di notizie positive, purtroppo riguardano gli Stati Uniti. Vedo molti messaggi sul piccione American Sniper, vabbè, non male, però sulla vicenda di Pompei, attenzione, il problema non sono i 79 milioni di budget che ha avuto a disposizione Marcello Fiori quando era commissario straordinario di Pompei, mica ci mancherebbe. La Corte dei Conti contesta l'utilizzo, contesta per esempio il fatto che è riuscito a spendere tra il 2009 e il luglio 2010 102.000 euro per il solo progetto cave canem, cioè il censimento, non la rimozione, di 55 cani randaggi. Vuol dire che hanno speso 2.000 euro a cane, ma neanche, ma meglio nascere cani a sto punto in sto paese, solo per il censimento, cave canem, eh? Faccio notare che con la stessa cifra ci pagavi lo stipendio di un anno a 4 archeologi, ma chi se ne frega. 12.000 euro spesi per la rimozione di 19 pali della luce, boh. 1.800 euro per le divise degli autisti a disposizione del commissario, fondamentale per il sito di Pompei, no? 81.000 euro spesi per organizzare e accogliere la visita del Presidente del Consiglio. A parte il fatto che si possono risparmiare anche quelli, ma c'è un piccolo dettaglio: la visita non si è mai realizzata, non è venuto il Presidente del Consiglio, eppure hai speso 81.000 euro, tra cui 9.600 al ristorante locale Il Principe di chi? Che si vanta di essere un ambasciatore dei sapori dell'antica Roma. Ho capito, 9.600 euro di spesa per una visita che non c'è mai stata. Vogliamo parlare dei 55.000 euro spesi per comprare il prezzo di 55 euro a bottiglia? Ora chi vi parla ha fatto qualche anno di Vinitaly, 55 euro a bottiglia, siamo a livello dei Super Toscan. Per comprare dalla casa di vinicola Mastro Bernardino, grande vino, locale, il vino Villa dei Misteri, il mistero, unico mistero perché l'hai comprato, 55.000 euro. Parte di questo vino è rimasto anche accatastato in una stanza dove l'ha trovato il sovrintendente successivo. E gli 11.000 euro spesi per 50 copie del documento ideazione, sviluppo e rilegatura del documento piano degli interventi e relazione delle iniziative adottate dal commissario delegato, dove li mettiamo? So. Poi si difenderà Fiori. Sì, lo so che Fiori è responsabile del club di Forza Italia, ma a me interessa il suo ruolo quando era sovrintendente di Pompei e come ha speso le contestazioni che gli vengono mosse per questi 79 milioni di euro. Eravamo già nel 2009, la crisi era già iniziata. Mario Platero, cambiaci tu il verso della giornata. Buonasera, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Buonasera Sebastiano, che notizie che ci hai dato. Le notizie sono un po' più, beh sì, devo dire, poi gli sprechi ci sono anche qui, ricorderai il martello che costò 70.000 dollari, quindi poi sì, vabbè, adesso temo che tutto il mondo è paese. No. Comunque qui la buona notizia in America è che il tasso di disoccupazione è andato molto bene, molti temevano che col freddo che abbiamo avuto, Sebastiano, un freddo bestiale, scusa il termine, mm-hmm, ma un mese continuo di gelo, di neve, ancora ieri ha nevicato a 20 centimetri, ecco, si temeva che come l'anno scorso ci potesse essere un impatto negativo sull'economia americana o comunque sull'occupazione, non c'è stato. Abbiamo avuto un dato questa mattina, sono stati creati in febbraio 295.000 nuovi occupati. Quello che secondo me è molto significativo è che mediamente negli ultimi 12 mesi abbiamo avuto occupazione creata al ritmo di 200.000 persone al mese, che è un dato che non si registrava. Sì, pazzesco, cioè 12 molto, mesi molto di tempo. Fila con l'occupazione che cresce a un ritmo superiore di 200.000 nuovi occupati al mese. Era 7 anni, se ho ben visto, ed è tornata a 7 anni e soprattutto fa impressione la serie consecutiva, perché questo mese, cioè meglio febbraio, 295.000 posti di lavoro, ma il dato è impressionante come tu ricordavi in questi 12 mesi. Vorrei capire, dopo il traffico, tra l'altro il tasso di disoccupazione è sceso al 5,5%, il livello più basso da 7 anni appunto a questa parte. Questo è il risultato della politica economica di Barack Obama e a questo punto come si muoverà la Federal Reserve? Perché, spiego, oggi l'euro si è indebolito ulteriormente perché gli operatori scommettono sul fatto che con dati così buoni a questo punto l'economia statunitense è veramente ripartita, la banca centrale inizierà a aumentare leggermente i tassi di interesse. Di nuovo in diretta, allora Mario Platero, dati così buoni sull'occupazione, il mercato inizia a scommettere che nella prossima riunione della Federal Reserve la banca centrale almeno indicherà il sentiero del rialzo dei tassi di interesse. Sì, dunque Sebastiano, la situazione è questa: 5,5% come tu hai detto, una volta il tasso implicito era al 5,2%, cosa vuol dire? Che su quel livello ci stiamo andando molto vicini di disoccupazione, a un certo punto i salari cominciavano a crescere. Se c'è un dato negativo in quello che abbiamo visto questa mattina è che i salari restano comunque piuttosto bassi, non ci sono stati aumenti delle paghe sul livello orario. La Fed guarda molto anche a quello, perché è l'aumento del reddito che poi ti consente di controbattere, se vuoi, il problema dell'inflazione. La Fed ha un obiettivo, come da noi l'obiettivo del 2%, non ci siamo. Quando si comincerà a vedere un rimbalzo dei salari, e secondo me ci siamo vicini, allora la Fed secondo me opererà. Non so se lo farà nella prossima riunione, forse in quella dopo. Io credo che sarà difficile che lo faccia prima di giugno, però giustamente il mercato sconta e quindi in questo senso tu vedi già l'euro che si indebolisce nei confronti del dollaro, e c'è chi dice che andrà sotto la parità ovviamente, quindi più o meno è nelle carte. Però il contesto dinamico oggi riguarda l'aumento del reddito che ancora non c'è. Ultima domanda, alcuni dicono: guardi che lei sta facendo radical chic, il merito non è di Obama ma è della Fed. L'abbiamo detto in apertura, abbia pazienza, che questo merito si chiama, o meglio, che questo risultato ha dei padri che si chiamano Federal Reserve e anche però vorrei dire la Casa Bianca, cioè un approccio radicalmente opposto a quello che la Germania ha imposto all'Europa, diciamola tutta, dal 2010 in poi, su cui adesso anche l'Europa con Mario Draghi, non certo grazie ai tedeschi, sta cercando di correggere. Più merito della Fed o merito di Obama? Allora, il padre secondo me è l'America, perché è l'America che ha un'impostazione diversa, consente che la Fed possa promuovere il lavoro e non soltanto proteggerci dall'inflazione, che è una cosa assurda, consente di avere un disavanzo pubblico sul PIL che, come sai, ha toccato addirittura il 10% e non il limite del 3%, e dunque è l'America che consente alle sue istituzioni di non avere limiti sul tetto al rapporto disavanzo PIL e consente alla Fed in autonomia di intervenire per rilanciare l'economia. Entrambi, Casa Bianca, amministrazione e Fed, hanno utilizzato questi due strumenti al meglio. Purtroppo l'Europa, come giustamente hai detto, perché qui c'è sul piano storico secondo me una colpa della Germania, appunto non lo ha fatto perché Berlino ha resistito, e adesso piano piano stiamo ripartendo, ma siamo 4-5 anni in ritardo. Almeno, bravo, 4-5 anni in ritardo, poi magari questi 4-5 anni non hanno pesato in Germania, hanno pesato in altri paesi e hanno incancrenito comunque la situazione. Grazie a Mario Patero in collegamento con noi da Washington, in bocca al lupo per la bufera di neve che so che ti ha lì bloccato e però non abbiamo altro da aggiungere. Adesso la borsa. Giornata piattina sugli indici, più 0,16 Milano, invariata Parigi, più 0,4 Francoforte, l'America meno 1 sul Dow Jones, Londra meno 0,70%. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Monte dei Paschi ha strappato più 4,42%. Sì, beh, qui diciamo che tutte le banche oggi sono andate molto bene, si aspetta lunedì l'avvio del quantitative easing della BCE e quindi ovviamente hanno approfittato tutti i titoli bancari italiani, grazie anche allo spread che è sceso oggi durante la seduta sotto i 90 punti base e adesso è appena sopra, quindi comunque uno spread molto contenuto che ha permeato le banche, soprattutto grazie a causa del gran numero di titoli di Stato in portafoglio. MPS approfitta anche della speculazione su possibili riassetti azionari in occasione dell'aumento di capitale e dell'imminente aumento di capitale da 3 miliardi, è stato oggi il miglior titolo tra le blue chip, più 4,42%. Andiamo avanti con i titoli, Jux più 4,26%, Moncler più 3,51%, Pop Milano più 2,12%, Autogrill più 2%, e ancora Pop Emilia Romagna più 1,80%, tu ricordavi le banche in attesa dell'avvio del QI di Draghi lunedì, Generali più 1,80%, bene anche CNH più 1,60%, Mediaset più 1,40% come Buzzi, Unicem e Azimut. Fronte opposto, Snam meno 2,20, Enel meno 1,20 come Enel Green Power. Di questo parleremo dopo il GR24 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo l'approfondimento di borsa. Paolo Paronetto, dicevo, Moncler bene, e anche in movimento Mediaset oggi. Sì, Moncler ha chiuso con un più 3,5% che si aggiunge al più 10,5% di ieri. Il titolo continua a reagire molto bene ai risultati di bilancio, che hanno visto l'utile salire addirittura del 71%, quindi anche oggi gli investitori hanno continuato a comprare i titoli Moncler. E Mediaset è salita dell'1,42%, qui il tema continua a essere quello dell'OPA dell'offerta di Hightower sul Rai Way. Ieri il CDA di Hightower ha detto che è ancora prematuro parlare di possibili modifiche all'offerta, ma non le ha comunque escluse in attesa delle valutazioni ufficiali del CDA della Rai e di Rai Way, e quindi il mercato aspetta ancora di capire se si possa in qualche modo sbloccare la partita, nonostante le dichiarazioni del governo sulla non contendibilità della società. Ancora due titoli, Yux, che ben si è mossa più 4,26%, e poi delle banche parlavamo in generale, però lunedì arrivano gli emendamenti al disegno di legge sulle banche popolari. Sì, esattamente. Per quanto riguarda velocemente Yux, il titolo ha guadagnato il 4,3%, e qui c'è una serie di report positivi sul settore delle vendite online, di cui Yux è leader in Italia, quindi gli investitori si sono posizionati sul titolo. E per quanto riguarda le popolari, diciamo che è stato raggiunto già, a quanto è stato detto già ieri, un accordo all'interno della maggioranza con un parere favorevole del governo, un emendamento per l'introduzione di un tetto transitorio al 5% per i diritti di voto, notizia accolta positivamente dal mercato, che vede in questo compromesso un passo avanti verso l'approvazione delle riforme delle popolari, che non compromette i vantaggi maggiori della trasformazione in SPA, e quindi oggi i titoli si sono mossi tutti molto bene. Ancora per quello che riguarda le popolari, cito anche in descrizione di stampa secondo cui il finanziere Davide Serra avrebbe presentato a Banca Etruria una proposta di cooperazione, risanamento e rilancio. Davide Serra, noto, nostro ospite anche alcune volte, per essere molto vicino a Matteo Renzi, finanziatore della Leopolda, l'uomo che si dice, è una vulgata ma è anche in parte vero, ha introdotto Renzi alla comunità finanziaria di Milano. E non solo, migliori e peggiori della giornata. Allora, per quello che riguarda i titoli in positivo, risanamento più 10,80, Mondadori più 7,40. Su Mondadori però, Paolo, qui è l'esclusiva che ha dato la Rizzoli Corriere della Sera, no? Sì, esattamente. Oggi il CDA di RCS ha concesso quasi 3 mesi di esclusiva fino al 29 maggio alla Mondadori per trattare il possibile acquisto di RCS Libri. Il titolo ne ha assolutamente beneficiato, appunto è salito del 7,4% quasi. Anche il titolo della controllante di RCS Libri, cioè di RCS, ha reagito positivamente, anche se in modo più limitato, rialza del 2,71%. E poi bene anche Prelios più 6,50, Gabetti più 6,30, Frontopposto Safebag meno 6,90, Geox meno 3,20, Innovatech meno 3,80%. Grazie e buon fine settimana a Paolo Paronetto e colleghi di Radio Coro di Sole 24 Ore. Due notizie di tenore diverso: una è una scadenza che arriverà dal 15 aprile, ma è il caso di parlare adesso, il 7,30 precompilato, l'altra invece è un'inchiesta che durerà, ma è tutto da stabilire se arriverà alla conclusione che il PM si aspetta. Mi riferisco a Trani contro le agenzie di rating. Partiamo dal 7.30 precompilato. Allora, arriverà il prossimo 15 aprile, dal prossimo 15 aprile, il 7.30, il modello 7.30 precompilato per i pensionati, lavoratori dipendenti assimilati. 20 milioni di modelli dovrebbero essere inviati, lo ha annunciato oggi l'Agenzia delle Entrate, spiegando che insomma, questo è possibile grazie al patrimonio informativo acquisito. Chiedo a chi queste cose le segue tutti i giorni, quindi in questo caso Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Buonasera Giovanni. Buonasera a voi. Cosa vuol dire grazie al patrimonio informativo acquisito e che vantaggi, spieghiamolo proprio terra a terra, darà ai 20 milioni di italiani che se lo vedranno recapitare a casa dal prossimo 15 aprile in poi? Allora, il patrimonio informativo non è nient'altro che la trasposizione di quello che i lavoratori dipendenti stanno ricevendo, hanno ricevuto in questi giorni, che si chiama certificazione unica, che non è nient'altro che il vecchio CUD in cui sono inseriti i redditi da lavoro dipendente e pensionati, quindi insomma che lo stanno ricevendo dall'INPS essenzialmente, percepiti e erogati quindi l'anno scorso. Questi dati, oltre ad essere consegnati appunto materialmente e fisicamente al contribuente, vengono da quest'anno trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate. Per inciso, la trasmissione non è ancora completata perché la scadenza è quella di lunedì 9 marzo, entro cui appunto datori di lavoro e tutti gli altri sostituti di imposta dovranno completare questo invio dei dati. A questi si aggiungono anche alcuni dati che sono invece già arrivati, che riguardano alcuni tipi di oneri, li chiama il fisco, non sono nient'altro che delle spese che danno diritto a delle detrazioni e delle deduzioni in dichiarazione dei redditi. Facciamo il caso più frequente, che è quello degli interessi pagati sui mutui per l'acquisto della casa. Quindi a questo poi vanno aggiunte alcune spese che riguardano invece le assicurazioni e ulteriormente i contributi previdenziali versati e anche i contributi alle colf. Tutta questa base dati viene in qualche modo già preelaborata dal fisco e viene messa a disposizione online a partire dal 15 aprile in questo appunto ambiente che conterrà il 7.30 precompilato. Quali sono i vantaggi dall'accettare integralmente il 7.30 precompilato? Essenzialmente una riduzione del rischio di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e la possibilità per chi ha rimborsi di imposta superiori ai 4.000 euro di non essere sottoposto alla verifica preventiva, ma di averli erogati direttamente all'interno della busta paga o del cedolino pensione. Naturalmente, qual è il vero limite di quest'anno? Quest'anno è un debutto sperimentale del 7.30 precompilato, quindi mancheranno molti dati, sarà una dichiarazione incompleta. Per esempio mancheranno i dati sulle spese mediche, che appunto danno diritto alla detrazione del 19%. La stessa Agenzia delle Entrate ha stimato che quest'anno dovranno almeno essere integrati o modificati circa il 70% dei modelli precompilati che appunto verranno messi a disposizione dei contribuenti. È un primo inizio, è un primo debutto, vediamo appunto come andrà a finire anche insomma con questa prima sperimentazione e poi a seguire negli anni successivi. Però il vantaggio, è chiaro che quest'anno è un debutto, come tu ricordavi, parziale, ma il vantaggio, perché ce lo stanno chiedendo, alla fin fine dovrebbe essere che cosa? Eliminare il commercialista? Lo dico con il massimo rispetto per i commercialisti. Sì, insomma, in teoria potresti farlo anche da solo. Naturalmente di che cosa hai bisogno? Hai bisogno di una password per accreditarti al sito dell'Agenzia delle Entrate e devi avere, come dire, la contezza che appunto i redditi che sono stati inseriti o le spese che sono state inserite siano che danno diritto a detrazione o deduzioni siano esattamente quelle, perché in qualche modo magari una sottostima di una spesa vuol dire godere di meno detrazioni, di meno deduzioni e quindi dover pagare più tasse essenzialmente. Certo. Ecco, faccio notare a chi ce lo chiede che comunque il contribuente può comunque modificare, integrare o accettare in toto il modello e trasmetterlo al fisco dal 1 maggio al 7 luglio, basta tra virgolette o dal proprio PC o appunto delegando il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, può essere appunto il commercialista o un CAF. Se la dichiarazione viene accettata direttamente così com'è o modificata tramite un CAF o un professionista abilitato, si chiude la partita con il fisco, perché in quest'ultimo caso i controlli documentali sono effettuati direttamente nei confronti dei CAF e dei professionisti a cui io mi affido, quindi al mio commercialista o al mio CAF. Grazie a Giovanni Parente. I Codacons stimano, quindi una delle associazioni che difendono i consumatori, stimano risparmi compresi tra i 600 milioni e i 2 miliardi dalla precompilazione della dichiarazione dei redditi. Staremo a vedere se è vero. E ultimo tema, Trani contro Wall Street. Parliamo di strumenti derivati, ma non tanto per la vicenda su cui, o meglio, in cui è coinvolto il Ministero del Tesoro. L'esposizione del nostro ministero in derivati ammonta agli attuali valori di mercato a una perdita di 42 miliardi di euro, però sono la maggior parte dei casi i contratti interest rate swap, cioè servivano per proteggersi dall'aumento eventuale dei tassi di interesse e quindi dal maggior costo del debito. Però attenzione, perché sono spalmati, sono perdite potenziali perché si verificano solo quando vai a vendere. Se si guardano i contratti in essere, le clausole di estinzione anticipata sono al momento in perdita per 9 miliardi e 3. Le date però di un possibile rimborso sono spalmate dal 2015 al 2038, quindi il tempo è molto lungo. Ha però ragione, a nostro avviso, hanno ragione sia Luigi Zingales che Andrea Buraschi, che nei giorni scorsi hanno scritto su Sole 24 Ore. Attenzione però, il Tesoro dia delle informazioni trasparenti, è inutile continuare con questa rida di ipotesi, speculazioni giornalistiche. Ci sia un comunicato ufficiale del Tesoro che dice: la nostra esposizione è questa, a scadenza vanno questi, il periodo è questo, le perdite accumulate virtuali sono queste, ma dobbiamo rimborsare solo questa tranche. E insomma, se no si continua a scrivere di tutto e di più. No, qui il tema è un altro. I PM di Trani ipotizzano che quando nel settembre 2011, tra settembre 2011 e gennaio 2012, l'agenzia di rating Standard & Poor's ha declassato per due volte il voto sul debito italiano, questo abbassamento del rating ha fatto scattare una clausola di uscita dal contratto derivato sottoscritto con il Tesoro da parte di Morgan Stanley. Aveva una clausola che se veniva abbassato il voto del debito italiano lei poteva uscire. Cosa è successo? Morgan Stanley ha incassato in questo modo 2 miliardi e mezzo di euro, e fin qua uno dice va bene, bene per Morgan Stanley. I PM di Trani però dicono: attenzione, siccome Morgan Stanley era azionista della principale società, della società che possiede l'agenzia di rating McGraw-Hill, c'è la possibilità che, avendo Morgan Stanley un grosso guadagno da un declassamento del debito italiano, abbia, diciamo, fatto pressione, abbia orchestrato questo declassamento in modo da avere la possibilità di esercitare la sua clausola di uscire da questo contratto e guadagnare 2 miliardi e mezzo di euro. Detta così, l'inchiesta ci sta tutta, però come ha scritto Claudio Gatti ieri su Sole 24 Ore, beh, insomma, qualche problemino nell'inchiesta c'è. Claudio Gatti, buonasera. Claudio. Buonasera a voi. Ti sento un po' basso, se alziamo i volumi. Che cos'è che non, tra virgolette, non torna o rende meno semplici di come l'ho spiegata io l'intera ipotesi accusatoria e soprattutto la dimostrazione di queste ipotesi accusatorie? Allora, innanzitutto il problema principale è che di queste questioni pochi capiscono. Già distinguere un derivato da un denominale non è facile per molti. Io mi occupo di derivati di enti territoriali da 8 anni, quando abbiamo cominciato col Sole 24 Ore a denunciare gli abusi delle banche internazionali, le truffe contabili degli enti locali. Sì, truffe con alcuni complici pagate. Anche, certo, bravo. Detto questo, sulla quella vicenda di Trani, io ho l'impressione che anziché cercare i fatti, si preferisce guardare a dei possibili complotti franco-teutonico-massonico-finanziari contro il governo Berlusconi o contro l'Italia in generale, perché fa effetto, colpisce la pancia della gente. La domanda è: sono accuse basate su fatti e prove concrete? Ecco, io non le vedo. Cioè, nello stesso momento in cui Standard & Poor's, che tra l'altro non è di proprietà di Morgan Stanley come alcuni hanno detto, Morgan Stanley ha una divisione banca e c'è una divisione di gestione del risparmio, che sono due cose completamente separate. All'interno della gestione del risparmio c'è una serie di fondi, ognuno con un progetto di con un piano di gestione indipendente dall'altro, e messi tutti insieme questi fondi gestiti dalla società di gestione, di investment manager di Morgan Stanley, arrivava ad avere 2,75 nel settembre del 2011 di McGraw-Hill. Ma c'aveva, perché McGraw-Hill è una delle società del S&P 500, certo, una delle maggiori società americane, tutti avevano investimenti in McGraw-Hill, quindi non significa nulla. Detto questo, si, non si tiene conto del fatto del periodo storico. Le società di rating erano appena uscite dalla figuraccia, come minimo diciamo, della crisi finanziaria, in cui avevano contribuito, partecipato alla baldoria, alla buffata delle banche di investimento che impacchettavano mutui tossici, sì, cioè, e grazie ai rating delle società di rating li vendevano in giro per il mondo. Quindi avevano bisogno di dimostrare grande severità. Un mese prima del primo declassamento avevano declassato il debito sovrano americano con grande incavolatura di Obama, la ricordiamo. Come no? Ma c'era stata una reazione del Dipartimento del Tesoro che aveva accusato Standard Poor's di essere incompetenti, di malafede, di non sapere fare i conti. È una cosa pesantissima, molto più pesante dell'attacco, cioè, o meglio, della denuncia che fece all'epoca Monti per il secondo declassamento, dicendo che era un attacco all'Europa. Allora, questa cosa non ha senso solo per questo motivo. Allora, in quel stesso periodo Standard Poor's ha declassato la Francia, l'Austria, il Belgio. Sì, bisogna capirsi. Questo programma ha fatto decine di puntate, non solo su questo, ma ricordando anche i conflitti di interesse totali in cui navigavano le agenzie di rating, e navigano in alcuni casi, e che sono stati a nostro avviso alla base della miopia, per essere buoni, con cui le agenzie stesse non hanno visto quello che stava capitando, che poi è esploso da ottobre del 2008 in poi. E cioè, se la persona a cui tu dai il voto è anche quella che ti paga, insomma, è come se dovessi dare il voto a uno studente e però lo studente che mi paga lo stipendio. La persona, il tuo cliente più importante, più frequente, che sviluppa il maggior giro d'affari, rischia di essere un po' privilegiato, no? Questo è nelle cose umane. E questo è il problema delle interrogazioni per parlamentari, le abbiamo fatte anche ascoltare, di tutte le agenzie di rating, che dicevano: ma le nostre hanno solo opinioni. Eh no, caro, perché con quei voti tu potevi piazzare come banca i mutui subprime, quindi mutui che erano destinati a fallire, però con un voto alto, e quindi tutti potevano comprarle perché c'è un regolamento, no? Ci sono fondi che hanno l'indicazione: compriamo solo AAA, solo AA. E vabbè. E questo è il fronte del conflitto di interesse delle agenzie di rating. Tu stai dicendo dimostrare che, io invito il PM di Trani, insomma, che avendo il 2,75%, come c'hanno molte altre società, volesse veramente punire solo l'Italia perché poi incassava 2,5 miliardi, in un periodo in cui ha declassato il voto francese facendo arrabbiare i francesi, ha declassato il debito americano facendo arrabbiare Obama, e in cui c'era il tentativo di essere rigorose, anche a mio avviso, io ho letto con attenzione il tuo articolo, ma è giusto che tu l'abbia esposto, l'inchiesta è un po' traballante. Nessuno vuole dare lezioni, lo dico a chi sta scrivendo, ai PM su come si fanno inchieste. Ricordiamo però anche che, insomma, la giustizia ha un costo. Si spera, i PM devono però anche spiegarci quanto realisticamente può essere portata avanti un'inchiesta, perché non è che mi posso domani dire: beh, secondo me c'è un complotto, allora andiamo sotto processo con Bilderberg un giorno. E onestamente, tutte le tue obiezioni, ripeto, ieri sul Sole 24 Ore, lasciano immaginare che dimostrare poi il nesso causale, i fatti, diventerà difficilissimo. Speriamo che l'esposizione mediatica sia solo una conseguenza e non così l'obiettivo principale del PM di Trani, perché sennò torniamo ai magistrati che fanno più esperienze mediatiche o politica che sentenze, perché vista così veramente è molto fragile, diciamo, è un fragile impianto accusatorio. Grazie anche a Claudio Gatti del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni il ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. L'augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.